Il punto di Stefano Folli. Che il prossimo leader del PD, Matteo Renzi, si proponga di cambiare l'agenda del governo nel senso di renderla più incisiva ed efficace può essere molto positivo. Sugli sprechi, sulla lotta al debito pubblico, tutti sanno quanto ci sia da fare. Ma se i propositi di Renzi nascondono il vero obiettivo di indebolire Letta, allora bisogna mettere in guardia il sindaco di Firenze. La condizione italiana è tale da non consigliare giochi politici sulla pelle del paese. Del resto Renzi sa bene che rendere più rigorosa la politica economica quando si parla di tagli alla spesa comporta il rischio e quasi la certezza dell'impopolarità. Anche in questo campo il prossimo leader del PD potrebbe costituire una novità importante, ma occorre vederlo all'opera. Finora non ha mai dato l'impressione di poter fare a meno del consenso. Tuttavia è su tali sfide che si definirà davvero il nuovo PD rispetto al vecchio partito, non nelle polemiche sterili e destabilizzanti.